durante un incontro territoriale, il solito incontro di inizio anno, dove ci sono stati presentati alcuni dati rispetto alla chiusura del 2023, rispetto al primo anno del nuovo integrativo, rispetto a un tema all'ordine del giorno che era rete vendita, ma non si parlava appunto di appalti o esternalizzazioni, Coop ci ha comunicato, senza entrare molto nei particolari, che da aprile intende esternalizzare, quindi appaltare, l'allestimento del reparto dei generi vari. Naturalmente è stata una notizia che ci ha colto di sorpresa. Abbiamo chiesto un incontro urgente dedicato al tema. Incontro urgente, incontro che abbiamo svolto il 26 di febbraio, dove Coop ha ribadito la propria volontà di esternalizzare questa attività, un'attività caratteristica dell'attività di negozio della rete vendita, perché l'allestimento dei generi vari è l'attività caratteristica della grande distribuzione. Motivando questa decisione, da un primo lato perché risponde ai bisogni e alle attenzioni dei clienti e dei soci, e poi diciamo c'è un tema che secondo noi è dirompente rispetto alla loro scelta, perché hanno dichiarato che questa operazione va a completare il bilanciamento degli organici dopo le uscite che si sono verificate con il contratto di espansione. Bisogna ricordare che noi abbiamo sottoscritto l'anno scorso un contratto di espansione con Coop Alleanza che ha visto al 30 di novembre l'uscita di ben circa 160 persone sul territorio di Bologna. Queste persone dovevano e in gran parte sono state sostituite con le nuove assunzioni, però è inaccettabile sentire che questa operazione va a completare quel processo di riassunzioni che deve vedere le assunzioni fatte tutte in capo a Coop Alleanza. Dopodiché c'è un altro tema preoccupante dal nostro punto di vista, è molto grave, nel senso che l'impresa alla quale Coop ha deciso di appaltare questo servizio è un'impresa che applica il contratto dei multiservizi, quindi un contratto non confacente con le attività che svolge Coop Alleanza, perché questi lavoratori andranno a sostituire i lavoratori di Coop Alleanza e vedranno applicato un contratto dei multiservizi che è il contratto che si applica per le attività delle pulizie, quindi è un contratto che non è aderente alle attività di allestimento. E quindi c'è questa ulteriore preoccupazione e gravità di scelta da parte di Coop, perché si crea del lavoro precario e del lavoro povero. Le retribuzioni di queste persone in appalto sarebbero più basse, quindi? Notevolmente, assolutamente sì, perché appunto il contratto dei multiservizi non è un contratto che è stato sottoscritto da noi e che rivendichiamo come organizzazioni sindacali, ma è un contratto che è confacente per altre attività che non c'entrano, che nulla hanno a che vedere con l'attività della grande distribuzione, appunto delle attività che devono essere svolte da dipendenti diretti di Coop e che quindi devono vedere applicato il contratto della distribuzione cooperativa in questo caso. E in più diciamo abbiamo espresso e siamo fortemente preoccupati anche per il futuro, perché ad oggi ci è stato comunicato questa scelta solo per i 5 superstore del territorio di bolognese e per il reparto dei generi vari, però siamo preoccupati per il futuro, che magari possa essere l'inizio di un processo che possa andare avanti e possa essere esteso ad altri negozi, altre reparti. Ecco, quindi ribadiamo la nostra più totale contrarietà, richiedendo ancora una volta a Coop Alleanza di rivedere e di ritirare questa loro scelta. Quindi si potrebbero creare lavoratori di serie A o di serie B, diciamo persone che fanno lo stesso mestiere in reparti diversi, che però hanno condizioni contrattuali e lavorative diverse. Assolutamente sì, questa è una delle più forti preoccupazioni, assieme a quello che vi dicevo poco fa rispetto agli scenari futuri, perché ci troveremo a persone che svolgono mansioni medesime ma sono assunte da due aziende differenti e hanno due trattamenti economici e normativi totalmente differenti, e in questo caso quello dell'appalto sarebbero di peggior favore rispetto a quanto previsto dal contratto della distribuzione cooperativa. La ragione per cui Coop fa questa cosa cos'è? Economica? Ma a loro dire è anche economica, ma principalmente per dare un servizio migliore ai clienti e ai soci. Noi siamo convinti che invece si possa verificare fortemente una perdita di professionalità, perché se è vero che da un lato non c'è il tema della salvaguardia occupazionale, però è vero che ci saranno dei trasferimenti e di reparto e di punto vendita, con la conseguente perdita di professionalità già acquisita da queste lavoratrici e questi lavoratori. Le 16 ore saranno un po' a sorpresa? Assolutamente sì, saranno delle ore. La proclamazione che abbiamo fatto è un primo pacchetto di 16 ore di sciopero che non prevedete più alcun preavviso, e le modalità saranno quelle che riterremo più opportune, quindi assolutamente sì, un sciopero a sorpresa.